Letture di Radio 24. Cosa chiediamo al 2014 per i nostri figli? È la domanda che il settimanale L'Espresso ha rivolto a 14 personaggi famosi. Scrivendo alle sue due gemelline, il celebre violinista Salvatore Accardo si augura che la nostra classe dirigente capisca che la musica è importante dal punto di vista sociale, perché arricchisce chiunque l'avvicini. Mie care gemelline Ines e Irene, auguro anche a voi di crescere con la musica, felicemente come il vostro papà. La musica è fondamentale per ogni essere umano e non si può vivere senza. Già da piccolissime avete trascorso ore serene sulle note di Mozart o Tchaikovsky. Quando avete compiuto 3 anni su vostra richiesta, io e la mamma vi abbiamo fatto trovare sotto l'albero di Natale 2 violini per bambini. A me non importa se non vorrete diventare delle musiciste professioniste. Quello che desidero è che la vostra educazione musicale sia seria, cosa che nel nostro paese è difficile da attuarsi. Anche mio padre Vincenzo, incisore di cammei a Torre del Greco con la passione dell'opera, nel lontano 1944, quando avevo 3 anni, mi donò un violino per bambini che acquistò con grandi sacrifici. La mamma ne fu assai contrariata. «Ma quanto l'hai pagato?» gli chiese. E lui, «Ma poco, 1000 lire». «1000 lire? Ma tu sei pazzo!» Perché 1000 lire a quei tempi, con la guerra e la povertà, erano un bel po' di soldi. Ma con quel violino, con la musica, il mio sogno era divenuto realtà. Il mio destino tracciato. Il talento per la musica è la premessa ed è uno straordinario regalo che può essere sciupato da un cattivo insegnante, da una famiglia inadeguata o da uno Stato che non fa la sua parte. Per questo non smetterò mai di sostenere le iniziative che incoraggiano l'esperienza della musica tra i più piccoli. È importante che nel nostro paese si ricostruisca un'educazione musicale di base, perché purtroppo sembra che da noi attualmente si diventi appassionati di musica solo per folgorazione divina, per tradizione familiare o perché un amico un giorno ti porta a un concerto. Mai per educazione. Per fortuna, nella crisi imperante, nuovi orizzonti per l'educazione musicale arrivano da lontano. Dal Venezuela. Apprezzo molto El Sistema, di José Antonio Abreu, un metodo per la promozione sociale dell'infanzia e della gioventù attraverso un percorso innovativo di didattica musicale. Questo raffinato intellettuale ha infatti messo a punto un paradigma educativo e dal 1975, con il suo lavoro, ha salvato migliaia di bambini e ragazzi dalla strada e da tutte le sue brutture. Alla base del sistema c'è il principio per cui ogni bambino, fin da piccolo, inizia a studiare uno strumento. Non importa quale. Quello che conta è che la musica entri a far parte integrante dell'istruzione di base. Tutti crescono con la musica e formano delle orchestre. E da queste sono venuti fuori fior di musicisti. Ora l'abbiamo importato in Italia. Ogni nazione, ogni stato è diverso e non si può copiare pari pari quello che fa un altro paese. Bisogna adattarlo. Ma ciò che la nostra classe dirigente dovrebbe capire è che la musica è importante dal punto di vista sociale perché arricchisce chiunque l'avvicini. Ed è anche terapeutica. Mozart e Vivaldi in alcuni casi sono quasi miracolosi quando vengono impiegati per curare chi è affetto dalla sindrome di Down o da autismo. Concludo la mia lettera, care gemelline, con un invito alla speranza. Non dovete farvi condizionare dal momento buio che stiamo attraversando. Se non chiudiamo gli occhi, se rimaniamo svegli e ci diamo da fare ognuno con le armi che ha a disposizione, sono sicuro che ci lasceremo questa notte alle spalle. Dovremo fare in modo che si creino le condizioni per una rinascita culturale. Noi insegnanti e artisti ce la mettiamo tutta. E secondo me bisogna lavorare proprio sui più giovani per fare in modo che apprendano, che cambino questo percorso di crisi solo all'apparenza ineluttabile. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Salvatore Accardo, Quel violino da 1000 lire, dall'Espresso del 9 gennaio. Letture di Radio 24. Da molti anni ormai, Internet è il luogo privilegiato per lanciare insulti gratuiti, ma mai come in questi giorni, in cui l'odio diffuso in rete non ha risparmiato nemmeno i malati. Finalmente una bella notizia. La notizia è l'ictus che ha colpito Pierluigi Bersani. E questo è il più soave e frequente fra i commenti malevoli che la notizia stessa ha ricevuto in rete, ancora prima che l'ex segretario PD fosse sotto i ferri per un intervento chirurgico dagli esiti oltremodo incerti. Ad Angela Merkel, vittima di un incidente sciistico non gravissimo, è ancora andata bene. Ma qualcuno ha rimpianto che non le sia toccata la sorte di Michael Schumacher. Per l'ischemia di Bersani si sono invece registrati messaggi di esultanza, insulti, auguri di morte lenta, incitamenti al male pari a quelli al Vesuvio e all'Etna quando minacciano eruzioni. Commenti apparsi dappertutto, sul blog di Beppe Grillo, sulla pagina Facebook del Fatto Quotidiano, ma anche su quelle di altri giornali, fra cui Repubblica. Atrocità. Dopo l'esperimento che fece Radio Radicale mandando in onda i messaggi ricevuti nella sua segreteria telefonica nell'86 e poi nel 93, ogni sgomento su quanto un cittadino possa dire quando sente di poter parlare liberamente e avere ascolto risulterebbe, se non ipocrita, almeno di maniera. Le interpretazioni possibili sono variegate: volontà di sfregio, goliardia, satira, occasione di dirla grossa, sfogo di vera rabbia da comprendere se non giustificare, fino all'ovvio colpa di Internet. Ma il problema non è Internet, per quanto la rete dia visibilità immediata e a fare notizia sia ovviamente solo la categoria dei messaggi estremi. La rete è semplicemente sempre aperta e sempre visibile. I controlli e la moderazione non sono facili e a volte sembrano maliziosamente tardivi. Il vero salto di qualità, però, consiste nel coro di invocazioni di morte su un avversario nel momento in cui egli rischia effettivamente la vita. Lì siamo arrivati. Qualche gradino sopra ai devi morire per il centravanti che mugola in area falciato da un difensore o ai cappi sventolati in Parlamento. Oggi siamo alla morte augurata a chi la sta effettivamente rischiando e il fatto è che il caso di Bersani non è neppure il primo. Di poco lo ha preceduto, ed è forse ancora più impressionante, quello di Caterina Simonsen, la giovane studentessa di veterinaria che una settimana fa ha difeso le ragioni di una corretta sperimentazione animale, a cui, malata, deve personalmente svariati anni di vita, e di conseguenza ha ricevuto insulti e soprattutto schiette dichiarazioni il cui senso era «meglio che morissi tu piuttosto che innocenti cavie di laboratorio». In questo caso opera un rancore puro e impersonale. Questo significa che oggi in Italia l'augurio di morte può saettare, e da un numero significativo di tastiere, in maniera paradossalmente spassionata. Molti di questi commenti sono tranquillamente firmati. Non ci curiamo di nasconderci dietro all'anonimato perché non vediamo più la persona, la carne e la vita, dietro ad alcun nome proprio. Inventare la battuta più efficace o l'insulto vale al massimo come sfogo. Non ci si preoccupa neppure delle conseguenze penali che possono derivarne. Nell'epoca che magnifica l'empatia come suprema qualità umana, cosa davvero sia il dolore a cui alludono con precisione le parole di una diagnosi o quelle di una maledizione, comunque di una condanna, non pare interessante né pertinente. In un immaginario spaventosamente monocorde siamo tutti vittime di soprusi. Il potente che cade ha finalmente avuto il fatto suo. Anche mio nonno è stato in ospedale, ma nessuno se n'è fregato, ha scritto un tizio a proposito di Bersani. Nel suo pauroso candore, la protesta indica la soglia che si è varcata, anno 2014. La nostra morte sarebbe indifferente a chiunque e quindi la morte di chiunque c'è indifferente, anzi ben venga. Questo è il limite che abbiamo raggiunto oggi. Il prossimo? Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Stefano Bartezzaghi, Quell'onda di odio che viaggia sul web, da Repubblica del 7 gennaio. Non viaggia invece in rete, ma sui palcoscenici, l'onda d'odio verso gli ebrei che si sta diffondendo in Francia grazie agli spettacoli del comico antisemita Dieudonné. Talmente offensivi che lo stesso Hollande ha deciso di intervenire, chiedendo a sindaci e prefetti di essere inflessibili nel mettere al bando gli spettacoli del comico politico. Ma la censura sarebbe controproducente, scrive Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, perché il comico, definendosi vittima del sistema, come ha già fatto, creerebbe ancora più seguaci nella sua campagna d'odio contro gli ebrei. Dieudonné Mbalambala è un famoso comico francese, ma soprattutto è un orribile antisemita che sparge scientemente odio contro gli ebrei. Ora le autorità francesi vogliono chiudere i suoi spettacoli, ma la discussione non verte su quanto sia spregevole uno che si vanta di aver strappato dal libro di storia di mia figlia le pagine dell'Olocausto. Le domande sono altre. È giusto invocare la mannaia della censura sugli spettacoli di un odiatore degli ebrei? Ed è utile? Oppure è addirittura dannoso e controproducente? Purtroppo la risposta è no, non è giusto, ed è forse disastrosamente inutile. Dieudonné non è semplicemente un neonazista vecchio stampo, idolo di poche bande di teste rasate e vuote che si rifanno esplicitamente alle forsennatezze anti-ebraiche del regime hitleriano. No, il suo islamo-nazismo fa breccia nelle periferie metropolitane di una Francia rancorosa e sull'orlo di una rivolta permanente contro l'ordine costituito e che viene solleticata nel suo odio verso gli ebrei ricchi e succhia sangue. Dieudonné è alla moda. E la cosa triste è che sia di moda, vezzeggiato, considerato un bravo comico, un trascinante uomo di spettacolo che trasforma il palcoscenico in una rappresentazione truculenta dei pregiudizi anti-ebraici. In questi giorni si parla di lui perché un calciatore dai piedi buoni e dal cervello annebbiato come Anelka ha esultato dopo un gol facendo il gestaccio coniato da Dieudonné, la Quenelle, un saluto nazista con il braccio all'ingiù e che fa sbellicare dalle risate gli spettatori del comico. Ammicca alla destra nazistoide, ma insieme al ribollente mondo dei musulmani, che non disdegnano la guerra santa contro l'Occidente corrotto e opulento da abbattere, e al conformismo progressista di sinistra, che copre con la coperta accettabile dell'antisionismo e dell'antiimperialismo filo-palestinese e terzomondista, pulsioni antiche giudeofobiche di una Francia che si contaminò in forme massicce con il collaborazionismo durante l'occupazione tedesca. Si rivolge a destra quando invita sul palco uno dei suoi migliori amici, il principe dei negazionisti, Robert Faurisson, e lo fa premiare da un finto deportato con la stella gialla, ma viene perdonato da una parte della sinistra per queste sue esibizioni vomitevoli. È utile censurarlo? Certo è difficile resistere alla tentazione censoria quando Dieudonné fa venire giù il teatro tra gli sghignazzi urlando «con la bandiera israeliana mi ci pulisco il culo». Quando si rivolge a un giornalista ebreo con «ti sei visto in faccia, sembri un dromedario», quando invoca la camera a gas per il giornalista Patrick Cohen. Bisogna tener duro, non offrire un'immagine martirologica di chi ama santificarsi come una vittima del sistema. La censura creerebbe più seguaci, più giovani delle periferie disposti a bersi ogni nefandezza di un comico che ulula contro gli ebrei. I suoi discorsi antisionisti circolerebbero in versione clandestina, con il fascino sulfureo del proibito, regalerebbero addirittura credibilità a un uomo che fa dell'ignoranza la sua bandiera e che grida alla rivolta contro la cultura e la civiltà che conosciamo. Dunque, la censura sarebbe controproducente, ma anche ingiusta, contraria a dei principi liberali che non dovrebbero mai venir meno. L'immagine dello storico negazionista David Irving, in cella a Vienna, per aver negato l'esistenza delle camere a gas, è l'antitesi della tolleranza. Le leggi che in Europa, e che si vorrebbe estendere in Italia, fanno del negazionismo un reato rappresentano la cancellazione pericolosa di un principio fondamentale, come quello della libertà d'opinione. Quando nella Francia dei primi anni Ottanta si scatenò l'ondata storiografica volta a negare la Shoah e la stessa esistenza delle camere a gas, la menzogna di Auschwitz la definivano senza vergogna, lo storico Pierre Vidal-Naquet, entrambi i genitori trucidati nei campi di sterminio hitleriani, si rifiutò di accodarsi alla campagna per mettere fuori legge i manipolatori della storia e in un libro destinato a diventare una delle opere più belle e toccanti della storia politica del XX secolo, Gli assassini della memoria, demolì punto per punto le falsificazioni, le scempiaggini, le distorsioni spacciate come verità dagli storici nazisti. Ecco, non la censura, ma una guerra culturale intransigente come quella di Klarsfeld e di Vidal-Naquet può essere un antidoto per contrastare i ruggiti antisemiti di Dieudonné e quelli che rimbalzano in Italia. E invece, in questi anni, in Francia, la condiscendenza e la paura hanno impedito di vedere che un giovane ebreo, Ilan Halimi, è stato sequestrato e ucciso mentre la polizia si è affannata a minimizzarne le motivazioni antisemite e persino per il massacro della famiglia ebrea di Tolosa si è tentato di ridimensionare la portata, attribuendo la strage a un pazzo isolato. Invece, il veleno antisemita sta producendo effetti devastanti, in Francia e non solo in Francia, in un orrendo miscuglio culturale fronteggiato con poche forze. Ora la censura, un rimedio che aggrava il male e lo rende perfino fascinoso. Un'altra sconfitta per le democrazie liberali. La Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, La censura che aiuta i seminatori d'odio, dal Corriere della Sera dell'8 gennaio. Quando non è impegnato nella sua attività di comico con Aldo e Giacomo, Giovanni Storti si dedica all'altra sua grande passione, la corsa. Perché bisogna correre? Perché è inutile, spiega Giovanni nel suo primo libro, pubblicato assieme a Franz Rossi. Andiamo. Ci sono cose che si fanno solo perché in quel momento ti gira di farle. Cantare sotto la doccia, fermarti a bere una birra con i colleghi, passeggiare lungo il mare d'inverno, perdersi nelle cartine geografiche di luoghi lontanissimi, aspettare l'alba in una notte d'estate. In ogni caso, ci sono decine di buoni, documentatissimi e ragionevoli motivi per correre. Fa bene alla salute, ti mantiene giovane, scarica lo stress, aiuta a socializzare, eccetera. Ma io corro perché mi piace l'inutilità della corsa. Ho un concetto altissimo delle cose inutili. Sono convinto che ciò che contraddistingue l'uomo dalle altre creature è proprio la capacità di perseguire l'inutile. Pensiamo all'alpinismo. Che senso ha mettere a repentaglio la propria vita per salire in vetta a un monte? Magari dopo che è stato scalato altre volte, magari sapendo che rischi di far soffrire chi ami. Pensiamo all'arte, una poesia, un dipinto, una sinfonia, un graffito nella metropolitana. Difficile immaginare qualcosa di più inutile. E poi c'è l'amore, la più peculiare manifestazione dello spirito umano. Gli scienziati non saranno d'accordo. L'amore è utile. Senza la spinta dell'amore, la razza umana sarebbe destinata a estinguersi. E poi la società civile è basata sulla microcomunità della famiglia, che a sua volta è basata sull'amore di coppia. Ma io dissento. Il sesso è utile, garantisce il perpetuarsi della specie. Il matrimonio è utile, garantisce il perpetuarsi della società. Ma l'amore è fatto di cose inutili. Una telefonata senza motivo, un regalo inatteso, la condivisione di un'emozione. Siamo uomini perché siamo capaci di compiere azioni inutili e di provar piacere per esse. E quindi, tornando alla corsa, alla fine capisci che è bella perché è un esercizio fine a se stesso. La scintilla può essere stata perdere peso, accompagnare la compagna o il compagno, stare in compagnia. Ma poi questo stimolo finisce e resta solo il piacere del gesto in sé. La corsa è inutile e proprio per questo va coltivata, come un'arte, come uno spazio libero su un muro pieno di quadri, come una pausa di silenzio. Sono le cose che facciamo e che non hanno senso che ci fanno crescere. E quindi io corro, a prescindere dal motivo per cui lo faccio. E voi, che motivo avete per non correre? Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Giovanni Storti e Franz Rossi, Corro perché mia mamma mi picchia. Mondadori, 192 pagine, 16,50 euro.